Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Microbiota intestinale e le sue modificazioni sono legate al decadimento cognitivo, lo dimostra una ricerca internazionale guidata dal team dell'Università di Firenze e coordinato da Claudio Nicoletti, professore associato di anatomia umana presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università di Firenze, che è in linea con noi. Professore, buongiorno. Cosa avete scoperto allora? Buongiorno a lei. Dunque, noi abbiamo valutato l'impatto del microbiota intestinale sulle funzioni del sistema nervoso centrale ed abbiamo visto che il microbiota, che tende a cambiare durante l'invecchiamento, ha un impatto significativo sull'espressione di proteine a livello dell'ippocampo che sono importanti per molte funzioni, inclusa la memoria e la memoria di navigazione, quindi in un certo senso l'orientamento. Chiaramente ora cercheremo di vedere se il processo opposto può portare ad un miglioramento. È chiaro che questo ci dà l'indicazione che il microbiota è molto importante, che con l'andare avanti dell'età tende a cambiare, che dobbiamo adottare un modo di vita e soprattutto un'alimentazione che noi suggeriamo basata su dieta mediterranea possa praticamente mantenere un microbiota sano. Microbiota sano molto probabilmente equivale ad un invecchiamento sano. Il Covid-19 ha cambiato in parte le abitudini in coppia, e quanto suggerisce il sondaggio che annualmente la Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica svolge in occasione della Settimana del Benessere Sessuale, in corso in questi giorni. Come è cambiata allora l'intimità della coppia? Ce lo racconta la dottoressa Delle Fabrizi, psicoterapeuta e sessuologa e tesoriera della Federazione. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Meno baci e più paura? Meno baci e più paura, esatto. Dunque, quello che viene fuori da questa indagine che abbiamo curato è che l'impatto psicologico della pandemia è davvero importante, soprattutto a livello proprio personale. E i risvolti sessuologici ovviamente sono altrettanto importanti. Viene riscontrato un livello di preoccupazione importante per la propria famiglia e per il partner, per la società in generale, e scarsa importanza per se stessi, cioè non si ha tanto paura di essere contagiati dalla malattia. Quindi però risulta che la parte più importante è la salute psichica, cioè è a rischio la salute psichica più di quella fisica, questo nella percezione delle persone. Dal punto di vista della sessualità, poi la maggior parte delle persone intervistate ha dichiarato di non aver interrotto i rapporti sessuali, ma di averli cambiati, quindi meno baci in effetti. Bene, per oggi è tutto. Vi ricordo la nostra iniziativa in collaborazione con il Centro Engage Minds Hub dell'Università Cattolica, che ci allena ad affrontare con il giusto passo questa nuova quotidianità, attrezzandoci adeguatamente. Sei dei nostri? Allenati con noi. Andate sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, dove potete trovare anche l'intervista di oggi con il dottor Giorgio Donegani. Parliamo di uova. Non mancate. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.